Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. A lunedì Radio 24, dopo effetto giorno, la cronaca dell'emergenza prosegue con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica, comparto fondamentale, tanto più in questo momento per consentire al paese di andare avanti, comparto, in particolare mi riferisco all'autotrasporto, che con il passare delle settimane è ormai al collasso. Traffici calati mediamente del 70%, crollo dei ricavi, servizi non pagati, tir costretti a viaggi di ritorno a vuoto perché lungo determinate rotte non ci sono più carichi da trasportare, imprese sull'orlo della chiusura, migliaia di posti di lavoro in bilico. Insomma, un'emergenza nell'emergenza, come denunciano le associazioni di categoria. Tra queste c'è FIAP, il presidente Massimo Bagnoli in linea con noi. Buongiorno Bagnoli. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, per molte aziende la situazione è drammatica e dalla base c'è chi parla già di un fermo dei servizi, per così dire un fermo ineluttabile, perché praticamente non ci sono più risorse per andare avanti. E attenzione, il rischio potrà riguardare anche il trasporto di merci essenziali. Bagnoli. È proprio la base che ci ha segnalato ancora, diciamo in tempi non sospetti, ma lo virgolettiamo, che ricevevano una quantità esagerata di comunicazioni nel ritardo dei pagamenti o di procrastinare le scadenze. Non è che la nostra base ci ha chiesto il fermo, per carità, il problema è che il fermo potrebbe essere naturale, nel senso che se non arrivano le risorse, se gli autotrasportatori non possono contare sull'incasso dei propri crediti, diventa naturale non mettere in moto i camion, in questo senso il fermo. Addirittura tra i committenti c'è chi ha annunciato con lettera formale che pagherà in 12 mesi. Sì, abbiamo sentito anche questo, tra l'altro sembra anche una grossa catena, io nomi non ne faccio ovviamente, però la preoccupazione viene che se sono le catene della grande distribuzione che, diciamo, sempre qui anche tra virgolette, hanno avuto la fortuna di poter comunque tenere aperto, lavorare, e alcuni addirittura sono in crescita in un momento di questo tipo, se sono loro ad annunciare che non pagheranno, allora noi dopo non pensiamo più alla difficoltà, ma pensiamo più allo sciacallaggio per voler cavalcare un momento che è tragico e non solo per gli autotrasportatori. Ecco, questo lo riteniamo di una scorrettezza inaudita ed è per questo che noi vorremmo regolamentare, magari in una maniera un po' forte, la tutela del credito dell'autotrasporto. E come si potrebbe, si dovrebbe regolamentare, Bagnoli? Beh, sì, no, una è proprio questa, che è quella di rendere indeducibili le fatture che vengono pagate oltre i termini di legge, poi magari con tutti gli accorgimenti del caso, perché possiamo anche pensare che ci siano anche dei committenti, anzi ci saranno sicuramente dei committenti in difficoltà. E quindi la prima cosa era quella. Poi come FIAP avete articolato altre proposte? Diciamo da subito, e qui invece andiamo a chiedere soldi che sarebbero nostri, ma devono esserci lo smobilizzo, la pronta erogazione di tutte le risorse che in questo momento sono gestite dal MIT. Abbiamo chiesto anche, come in recupero di liquidità immediata, di dare una franchigia di 2 mesi per il pagamento dei pedaggi autostradali, e poi dopo i 2 mesi una rateizzazione del debito che abbiamo nei confronti dei concessionari. Queste sono quelle cose che da subito potrebbero dare un po' di ossigeno. Come dicevo in apertura, insomma, ci sono molte imprese di autotrasporto che rischiano la chiusura. Assolutamente. Ma assolutamente. Beh, nell'autotrasporto purtroppo, che è reduce come anche le altre imprese dalla crisi del 2009, purtroppo però l'autotrasporto ha sempre avuto una marginalità molto risicata, quindi chi è sopravvissuto da quella crisi ha recuperato la propria marginalità probabilmente in tempi recenti. Aspettiamo anche degli aiuti che vanno oltre gli aiuti che ci può dare il nostro governo, perché ci aspettiamo che sia l'Europa che faccia l'Europa, quindi che faccia vedere che è un'Europa unita ed è un'Europa solidale. In questo momento dobbiamo ragionare in termini un pochettino diversi da come si è sempre ragionato finora. Massimo Bagnoli, presidente di FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, grazie e buona giornata. Grazie a voi. Arrivederci. Bagnoli invocava l'intervento dell'Unione Europea e proprio con Bruxelles ci colleghiamo. Siamo infatti in linea con Marco Di Gioia, che è il segretario generale di UETR, l'Unione Europea delle Piccole e Medie Imprese di Autotrasporto. Di Gioia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, con lei poi vorrei fare il punto sul pacchetto mobilità dopo l'iniziativa di alcuni paesi dell'est, iniziativa di cui appunto parleremo a breve, ma prima per i nostri ascoltatori le chiedo un quadro dell'emergenza in cui si trovano la logistica e l'autotrasporto tratteggiato appunto in chiave comunitaria. Beh, sicuramente la situazione è grave, perché naturalmente abbiamo tutta una serie di problematiche che vanno dall'attraversamento dei confini alla situazione che ci viene riportata quasi drammatica per quanto riguarda in vari paesi l'accesso a strutture sanitarie da parte degli autisti. Ci vengono riportate lunghe file ai confini nell'ambito dell'attraversamento dei più paesi. La situazione quindi è molto grave. Abbiamo ribadito come UETR anche alla Commissione Europea il ruolo, mi consenta, eroico dei nostri trasportatori che, nonostante le enormi difficoltà, continuano a fare il loro lavoro anche a rischio personale della salute. Ecco, a proposito delle frontiere, nelle scorse settimane sono state pubblicate linee guida che prevedono l'istituzione di corridoi verdi, lungo i quali far transitare i tir con controlli che non devono superare i 15 minuti. Però, appunto, si tratta di linee guida, in pratica solo raccomandazioni. Quello che noi vorremmo vedere in realtà è un approccio più coordinato e una risposta più forte da parte dei decisori politici europei, perché naturalmente le linee guida, come si sa, sono linee guida, quindi non sono istruzioni che sono obbligatoriamente da seguire da parte dei paesi membri. Noi vorremmo vedere un'armonizzazione, un controllo centralizzato, non solo per quanto riguarda l'attraversamento delle frontiere e i controlli anche sanitari che vengono effettuati agli autisti, controlli che, ha detto la Commissione, devono assolutamente essere limitati a ciò che è realmente necessario. Un'altra cosa che vediamo è la messa in atto di misure di flessibilità per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo, messa in atto oramai dalla stragrande maggioranza dei paesi membri dell'UE, per un periodo che non possa eccedere i 30 giorni. Quindi chiaramente le circostanze lo hanno imposto, anche qua noi vorremmo vedere un coordinamento, un'armonizzazione, perché va benissimo, ma ogni paese in realtà lo ha fatto con modi, tempi e anche, come dire, circoscrizione geografica diversa. Quindi paradossalmente un trasportatore che attraversa vari paesi si vede di fronte vari regimi di tempi di guida. E ora parliamo del pacchetto mobilità, che prevede in generale norme più restrittive sul cabotaggio e comunque tali da superare gli squilibri che da troppo tempo inquinano il mercato dell'autotrasporto. Nei giorni scorsi 8 paesi dell'est hanno chiesto che venga sospeso l'iter di approvazione dei provvedimenti proprio per l'emergenza coronavirus, un iter che, lo ricordiamo, pare ormai abbastanza avviato. Da più parti questa posizione è risultata molto, ma molto pretestuosa. Di Gioia. Una cosa che mi ha colpito è si definisce il pacchetto mobilità come una proposta, un pacchetto in grado di porre fine, addirittura con termini come dire quasi apocalittici, che porrà fine del tutto all'autotrasporto europeo anche alla luce dell'attuale crisi del coronavirus. Io, come dire, mi limito a ribadire quello che abbiamo già detto a livello europeo. Se c'è qualcosa che rischia di porre fine all'autotrasporto, non è certo il pacchetto mobilità, ma sono appunto controlli ingiustificati alle frontiere, una mancanza di struttura di supporto sanitario agli autisti, una mancanza di coordinamento per quanto riguarda la documentazione da esibire e da utilizzare per l'autotrasporto. Questo è ciò che veramente può porre fine all'autotrasporto, bloccando la vita delle aziende. Le dico anche che questa lettera è stata molto criticata dalla Presidente della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo francese, Karima Daly, che ha detto che non è ammissibile utilizzare il coronavirus, così ha detto lei, come scusa per eliminare o bloccare lavori che, come dire, vanno avanti da 2 anni e mezzo. Marco Di Gioia, segretario generale di UETR, l'Unione Europea delle Piccole e Medie Imprese di Autotrasporto, grazie e buona giornata. A lei e a tutti gli ascoltatori. A cristallizzare il crollo del traffico di merci lungo le strade ci sono alcuni dati che riguardano in particolare il nord-est, cioè la zona in assoluto più trafficata di mezzi pesanti. Sulla Padova-Venezia e sul passante di Mestre a marzo il calo dei transiti è stato del 54,4%, con punte giornaliere, soprattutto nell'ultima decade, dell'82%. Chiaramente il riferimento è al marzo 2019. Un altro dato, al Valico del Brennero dal 12 marzo il traffico leggero si è quasi annullato, mentre il calo del transito dei tir oscilla tra il 30 e il 70%. Dal nord-est alla Sicilia, dall'isola verso il nord, viaggiano soprattutto i prodotti ortofrutticoli, una filiera che chiaramente non si è interrotta. A Giovanni Brancati, coordinatore regionale di CNA Fita, abbiamo chiesto come procedono i servizi e quali sono le principali difficoltà incontrate dagli autotrasportatori siciliani. I mercati alla produzione sono regolarmente aperti, cominciato da quello più grande del centro-sud, che è quello di Vittoria, e quindi diciamo che la merce transita abbastanza regolarmente da sud a nord in questo caso. Gli autotrasportatori siciliani, come credo tantissimi in tutto il resto dell'Italia, hanno avuto delle problematiche particolari. Naturalmente ricordo quella relativa alla difficoltà di poter avere un giusto ristoro, nel vero senso della parola, per il fatto che bar, ristoranti, diciamo, sulle principali strade sono rimasti chiusi. Ora ci sono aperte solo quelle lungo la rete autostradale, ma per il resto c'è molta difficoltà in questo senso. L'altra questione è naturalmente l'aspetto sanitario, che diciamo da noi viene vissuto in modo particolare. I nostri autotrasportatori ci dicono che hanno grandi difficoltà a procurarsi i dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti e quant'altro, e su questo abbiamo chiesto alle autorità, per quanto riguarda quella regionale, di poter fornire anche in alcuni nodi stradali importanti questi presidi. In chiusura, ricordo, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli ha firmato, di concerto con il ministro della Salute Speranza, un decreto con il quale viene prorogata al 13 aprile l'efficacia di tutti i decreti già adottati con le misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria. Termina qui oggi hashtag Autotrasporti, vi ricordo l'appuntamento del sabato, Massimo De Donato in onda con Container, che come sapete è un approfondimento su questi temi. Noi con questo programma ci risentiamo come sempre lunedì alle 13.45, grazie per l'attenzione, ora il GR da Andrea Ferro, una buona giornata. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.